Созерцая объект, ты чувствуешь, что развивает привязанность к ним. С привязанности рождается рождение. Когда человек не обладает сознанием Кришны, созерцает объект, ты чувствуешь, у него возникает материальное желание. Чувства все время ищут себе занятия, если они не то обязательно найдут себе материальное занятие. Материальный мир, каждый, даже Господь Шива, Господь Брахма, не говоря уже о других полубогах, обитателях райских планет, испытывают на себе влияние объектов чувств. Единственный способ выйти из лабиринта материальной жизни — это обретение сознания Кришны. Господь Шива был погружен в медитацию, но когда Парвати разожгла внутреннее желание, он поддался искушению, в результате чего он обратился к Картикее. Великого Прилина, Харидас Такура тоже пытались соблазнить. Когда он будучи юношей, к нему пришла сама неодаренная Майя Деви. Но Харидас легкостью выдержал это испытание, потому что был безраздельно предан Кришне. Как ясно из возбужденного Вишу Стихаши, ему начали искренне преданность, способен избежать любых мягких соблазнов благодаря высшему вкусу, духовному блаженству, который нас испытывает, общаясь с Господом. В этом секрет успеха в духовной жизни. Тот, кто не обладает сознанием Кришны, который может быть любым, и сколько бы он пытался подавлять деятельность чувств, в конечном счете все равно обречен на неудачу, ибо малейшая мысль о чувственном удовольствии возбудит его и заставит попытаться удовлетворить свои желания. Капиладева объясняет Девахути о важности привязанности к садху. We can never avoid attachment. Мы не можем избежать привязанности. Question is, what are we attached to? Вопрос в том, к чему мы привязаны. Just like sometimes people are trying to renounce desire, renounce relationship. Как иногда люди пытаются отречься от желаний, отречься от отношений. This is an aspect of Buddhism, to give up all desires. Это аспект буддизма, отказаться от всех желаний. Мы никогда не можем полностью избавиться от желания, поскольку желание — неотъемлемая частица природы души. Душа — это сатчитананда-виграха, она полна знания, деятельности и блаженства. Даже если вы поместите маленького ребенка или взрослого в комнате без стимуляции, после какого-то времени Даже маленький ребенок или взрослый, если он будет находиться в комнате без деятельности, у него возникнет беспокойство. Он начнет видеть галлюцинации или воображаемую деятельность. Поскольку это природа существования, быть занятым какой-либо самбандхи, взаимодействием. Но мы должны стараться делать эти вещи, и это приведет к самосознанию. Мы понимаем, что существуют разные типы наслаждений. There's material pleasure that starts off very attractive, and then there's common reaction, there's frustration. Духовные вещи кажутся сложными, поскольку мы сильно обусловлены отклонениями. Мы развили множество плохих привычек. Мы начинаем мыслить Dal parlare in maniera inappropriata iniziamo ad agire in maniera inappropriata. From improper activities we develop improper character. dall'attività impropria, noi sviluppiamo sviluppiamo comportamenti inappropriati. So in general, conditioned humanity has so much improper behavior, bad character. Così le anime condizionate hanno così tanti comportamenti inappropriati. Because they are bound by certain enemies. Perché loro sono legate da alcuni nemici. So there is enemies particularly of the mind. Ci sono nemici particolari della mente. Because when the mind is captured, one is really imprisoned. Perché quando la mente è catturata, uno è veramente imprigionato. This is why we're constantly trying to control the mind through the ninefold process of devotional service. Questo perché noi cerchiamo di impegnare la mente nei nove tipi di processi di servizio devozionale. The mind is too captured by the mode of ignorance or passion. There's so much frustration. Se la mente è troppo sotto l'influenza della passione, dell'ignoranza, c'è così tanta frustrazione. But the mind is connected with goodness and then to transcendence, then there is liberation and happiness. Ma se la mente è legata alla virtù e successivamente alla trascendenza, allora il risultato sarà la felicità. The mind is engaged in samkalpa and vikalpa. Accepting something, rejecting, rejecting, accepting. La mente è sempre impegnata in samkalpa e vikalpa. Accettare e rigettare, rigettare e accettare. But it's accepting and rejecting according to what's in the environment. Ma questo accettare e rigettare dipende dal suo condizionamento. Just like a broom or a vacuum cleaner, it will sweep and pick up things according to what's in the environment. Как веник или пылесос. Like a broom, it sweeps. Come è proprio una scopa, raccoglie quello che c'è per terra. So we have to be careful what is in our environment. Così noi dobbiamo stare attenti a quello che ci circonda. Because we will pick some of it up and we will internalize. Поскольку то, что мы принимаем, это проникает внутрь. Like when Lord Chaitanya cleaned the Gandhija temple, he cleaned the gross and then the subtle. Così quando noi puliamo il tempio, come se Chaitanya ha pulito il tempio in maniera, prima la parte più grossolana e poi la parte anche più sottile. And then he started cleaning all outside, all around the temple. E poi ha iniziato a pulire tutto intorno al tempio. Because he was also cleaning so that from outside would not later come back in. So we have to stop our bad habits, but we also have to create the conditions so they don't come back again. Così noi dobbiamo curare le nostre cattive abitudini, però dobbiamo anche metterci in una posizione in cui non siamo costretti a ricadere in queste cattive abitudini. We haven't really deeply changed our consciousness, then the stuff that we put aside, it'll come right back in. Мы должны глубоко изменить свое сознание и сделать так, чтобы то, от чего мы избавились, не пришло обратно. Иногда мы удивляемся, как человек становится очень серьезным, строгим, но потом вновь оскверняется. Иногда такие люди не оттолкнули негативные вещи на безопасно далекое расстояние. Если эти вещи находятся слишком близко, остается тенденция вновь соединяться с ними. Perché qualche volta noi smettiamo le attività materiali, le attività pecaminose, però non smettiamo di desiderare le attività pecaminose. It's like you have a weed and you just cut off the top, but the bottom is still there. Così qualche volta abbiamo delle erbacce, tagliamo la superficie, però non sappiamo delle radici. If you don't cut it at the root, it will begin to grow and grow. Così se non stirpiamo le radici, questa erbaccia continuerà a crescere sempre di più. So yes, we must stop the gross sinful activities, but then we must work on the sinful desires. Sì, quindi è vero, bisogna smettere di compiere attività pecaminose, però bisogna anche interrompere i desideri materiali. And the way we do that, we have to transform the desire into something that is devotional. è quello che bisogna fare, quindi quello di trasferire i desideri a quello di trasformare i desideri in qualcosa di spirituale. Because we can never stop our desires. Perché noi non possiamo mai interrompere i nostri desideri. If our mind is not directed and agitated about how to serve and how to preach, the mind will be agitated for sense gratification. Perché se la nostra mente non sarà agitata, non sarà abituata a pensare a cose spirituali, allora sarà agitata da desideri materiali. There's never a time the mind is not agitated about something. Non è possibile che la mente non sia agitata da qualcosa. So these five, six enemies are like waiting to attack the mind. Questi 5-6 nemici cercano di agitare la mente. Kama, Krodha, Lobha, Nara, Mohan, Matsurya. Lust, greed, envy. La lussuria, la collera, l'avidità, la pazzia, l'illusione. Vasdelenia, gnev, zavist. L'invidia. So, these are all like enemies. Just waiting to attack and destroy and control the mind. Questi sono i nemici che cercano di attaccare e distruggere la mente. Just imagine if you have six people who want to destroy or harm you, and they're always watching you, waiting for a chance to attack you. Immaginate che ci sono sei persone che sono sempre pronte a crearvi dei problemi o ad attaccarvi e non fanno altro che aspettare che voi gli diate una possibilità di farlo. They're watching you. They say, there he goes, let's get it. Ti stanno guardando e dicono, ah, andando di là, prendiamo. Давайте, this is like the nature of living entity. He is trying to function, but the different six enemies are trying to attack. Sometimes all attack at the same time, sometimes one of them attack. Questo è quello che succede, che l'entità vivente cerca di agire e questi nemici l'attaccano sempre. Alcune volte l'attaccano tutti quanti insieme, alcune volte uno di loro l'attacca. Sometimes lust is attacking, sometimes anger, sometimes greed, sometimes enviousness. So difficult. Alcune volte attacca la lussuria, alcune volte attacca la collera, alcune volte l'invidia, alcune volte l'avidità. È così pericoloso. Just imagine, you've just been trying to keep off one enemy, lust, and then you were so exhausted, and then here comes greed. Просто представьте, вы хотите задержать одного врага, и вот так истощены этой борьбой, а тут появляется жадность. E poi viene l'illusione. А затем вылезает иллюзия или опьянение. E tu ti senti come, perché non mi lasciate in pace? E loro continuano ad attaccare. And sometimes they back away just to later charge and attack again. Alcune volte loro lasciano credere che sei tranquillo, però appena ti rilassi un po' ti attaccano di nuovo. So no wonder living entity is having such a difficult time, is always under attack. Не удивительно. No wonder it's so difficult. Живому существу так сложно. Quindi non vi меновидят, постоянно идет нападение. È sempre sotto questi attacchi. So it's very, very difficult to be able to control one's senses and one's mind. E quindi è molto, molto difficile controllare i propri sensi e i propri pensieri. But if you have some protection, you have more help and you can fight off the six enemies. Ma se voi avete un aiuto, allora sarete capaci di allontanare questi sei nemici. And what is that help? Strong sadhu sangha. E qual è questo aiuto? Una forte sadhu sangha. What is the weapons? Shastra. Quali sono le armi? Il shastra. Shastra. And who is the general? Guru. Chi è il generale? Il guru. So we have all of these things together, sadhu, shastra, guru. Then we have the proper protection. Quindi se noi abbiamo questa protezione, se noi abbiamo in maniera appropriata sadhu, shastra e guru, allora avremo tutta la protezione. Our day-to-day weapons is our sadhana, a good sadhana. Un'altra arma è un buon sadhana. I mean, attending morning programs, chanting our rounds, discussing philosophy, giving class. Che significa venire al programma del mattino per cantare i nostri cicli, discutere della filosofia. We have this sadhana, it's like an armor, protection. Questa rena montana è come avere la nostra un'armatura di protezione. And when our sadhana is weak, then one after another, these enemies, they start destroying us. Quando invece uno ha un sadhana debole, allora questi nemici iniziano a distruggere. One experiences greed, experiences lust, experiences anger. Uno sperimenta la lussuria, l'avidità e la collera. We may experience that even if we have good sadhana, but not as bad as when our sadhana is not good. Uno può sperimentare anche quando ha un buon sadhana, ma non è так сильно, как при плохой sadhana. It's not good, then there's so many more problems. Però i problemi sono molto più quando uno non ha un buon sadhana. It's no secret, when someone does not have a good sadhana, they look like they've been kind of beat up. Non è un segreto che quando uno non ha un buon sadhana, viene bastonato. They look dry, they look tired, they look sembra жизнь кажется triste, сухой, человек кажется усталым, spent. Подавленным. They don't have spunk, they don't have energy. Non ha energia, у него нет энергии. Because there's six people beating you up, where is the energy? Perché se sei persone stanno lì a picchiarti, come dovresti prendere l'energia? Oh, you can feel the pain from all the beats. Puoi sentire il dolore di tutte le botte. Some people, their sadness is so weak, they're just in pain. E quindi le persone che non hanno buon sadhana soffrono, soprattutto nella mente. So, after a while, they start trying to do something to remove the pain. И через некоторое время они начинают принимать что-то, чтобы устранить Illusion says we are the big ones. You better come and surrender to us. And intoxication, illusion, illusion, we are the big ones. And enviousness says, forget all of them. Just come and surrender to me. And invidia says, So the living entity starts surrendering, but then there's no peace. Così l'entità vivente inizia ad abbandonarsi, però non c'è pace. Because sometimes it's rooted in lust. Sometimes greed, sometimes anger. There's no peace. Perché qualche volta si abbandona alla lussuria, qualche volta alla collera, all'avidità, non c'è pace. Perché there's still under attack. Perché è sempre sotto gli attacchi. That is the nature of Maya. E questa è la natura di Maya. Maya summons us, but when we give in to Maya, Maya just demands more and more and more. Maya, noi ci abbandoniamo Maya, però appena non ci siamo abbandonati, Maya chiede sempre, sempre, sempre di più. It's different if you give it to Maya and Maya says, okay, I'm not going to bother you anymore, I'll go bother someone else. Sarebbe differente se noi abbandoniamo Maya e Maya dice, va bene, d'accordo, adesso non ti disturbo più, voglio disturbare qualcun altro. But Maya doesn't say that. Maya says, you were the same one, you surrendered before, so you can surrender again. Maya non dice così, Maya dice tu sei quello che si è abbandonato prima, allora ti dovrei abbandonare di nuovo. This is a major sense gratification. Once you start giving in, then the tendency is it becomes a habit. Questa è la natura di Maya. Più uno indulge in certe cose, più queste cose diventano più. The more intoxication you take, the more you start wanting it. Più tu prendi intossicanti, più ne vuoi. The more illicit sex, the more you pursue it. Più sesso illecito fai, più tu cerchi di avere. The more anger, the more it grows and builds up more and more. Più c'è collera, più questa collera cresce, cresce sempre di più. So that's ironic. When we give in to these six enemies, they don't feel happy and satisfied. They just want to control us more and more. Questa è un'ironia, però in effetti se noi ci abbandoniamo a questi sei nemici, loro non ci smettono mai di domandare e domandano sempre, sempre di più. So of course the best thing is not to start giving in, Конечно, самое лучшее, никогда не начинать поддаваться. Once you give in, it becomes hard to avoid them. Как только вы сдаетесь, становится сложно противостоять им. Как alcuni possono diventare dipendenti dalla droga. So they have some old friends they were taking drugs with. Noi abbiamo degli amici che prendono droga. One day they try to stop taking drugs. Un giorno smetteranno di prendere droga. But they see these same old friends. Ma loro dicono lo stesso vecchio amico. The friend offer them some drug. L'amico gli offre della droga. They say no, I don't take drugs anymore. Allora dico no, io non prendo più droga. The friend say, what do you mean? You used to? Come on, you can take it with us. Друг говорит, что ты имеешь в виду, ты всегда это делал, давай, прими это. Прими это. Very serious devotee, even when they see the enemies come, they go the other way. We must learn, we start feeling the lust, the greed, the anger, we change our path, we change our consciousness. Quindi quello che dobbiamo fare è quello che invece di seguire questi sei nemici dobbiamo cambiare il nostro percorso e la nostra coscienza. Otherwise the enemies they will attack us and attack us. Is doing the same thing. He's trying to engage in sense gratification. In ogni specie di vita c'è sempre lo stesso desiderio di impegnarsi nella gratificazione dei sensi. But for most animals or other life forms, they have one sense that's very strong. Ma negli animali c'è un senso che predomina, che è più forte degli altri. So often, when they control that sense, they will meet death. Если они не будут контролировать это чувство, quindi se loro non controllano quel particolare senso, allora saranno uccisi, significa la morte. Just like the fish, sometimes the fisherman puts out the rod and the worm, because the fish can't control the tongue, it bites, it gets caught, and then it dies. Proprio come il pesce, как рыба, рыбак насаживает на крючок червяка, поскольку рыба не может контролировать язык, когда la preda si butta sopra e viene uccisa. There is some type of gloves. And when they see the light or the fire, they run into the fire, they run into the light. They can't control the sense of sight and they destroy themselves. Ci sono alcuni tipi di insetti che non possono controllare la vista, quando vedono la luce o il fuoco, si buttano dentro e quindi muoiono. Sometimes the deer is very attracted to sweet music. The hunter plays a flute, the deer can't control the ear, it comes for the sound and the hunter shoots the deer. Proprio come il cervo, lui non riesce a controllare il senso dell'udito, è molto attratto dalla musica, il cacciatore suona il flauto, lui viene attratto e appena si avvicina al cacciatore, il cacciatore lo uccide. Sometimes the hunter is catching the elephant, you'll have one she elephant, and then put big trap. The male elephant comes for sex, falls into the trap. Il cacciatore di elefanti invece, siccome l'elefante è molto attratto dal sesso, il cacciatore di elefanti prende una femmina di elefante, la mente fa un buco, l'elefante che viene attratto corre verso l'elefantessa per avere del sesso e cade in questo buco e viene catturato. Because he cannot control the genital, means death. поскольку он может контролировать гениталии, для него это сложно. Но человек не может контролировать все чувства. Они постоянно действуют. So because of that, one must be very, very careful. Because once we get captured by the sense, then our life, spiritual life, goes down, down. So why this verse says, by contemplating the objects of the senses, a person develops attachment. Quello che dice questo verso, contemplando gli obiettivi dei sensi, una persona sviluppa l'attaccamento. Isn't that obvious? As you are meditating and thinking about something, you begin to attach yourself to it. Non è ovvio, se voi pensate e pensate a qualcosa, chiaramente diventerete attaccati. E poi, una volta che siete diventati attaccati, volete sperimentare. So, we have to transform our reflection. We have to think of the deity, we have to meditate on serving the Guru, we have to reflect on the scriptures. Quello che noi dobbiamo fare è cambiare. Dobbiamo osservare le divinità, meditare sulle divinità e sul servizio al Guru. Qui abbiamo delle divinità molto belle, abbiamo l'opportunità di venire e fare del servizio per divinità. Alcuni di voi hanno delle divinità a casa. Ma se voi non vi prendete cura delle divinità, allora iniziate a pensare che voi siete le divinità. E tutto quanto sarà centrato su prendervi cura soltanto di voi stessi. Noi non possiamo comprendere Krishna se pensiamo sempre a noi stessi. When we think about ourselves mainly, then the six enemies they come right in. They say, "Oh yes, we can help you." Se noi iniziamo a pensare a noi stessi, allora i sei nemici arrivano subito e dicono sì sì, noi possiamo aiutarti. But once you start thinking more of Krishna, then the six enemies they start backing away. Ma se noi iniziamo a pensare a Krishna, allora questi sei nemici iniziano a farsi lontani. Once you are chanting serious rounds, enemies back farther away. Ma se noi cantiamo bene i nostri 16 giri, e così i nemici sono ancora più lontani. You're reading the scriptures and trying to live accordingly, enemies back away farther. Studiamo le scritture, cerchiamo di vivere in accordo, e ancora più in là vengono allontanati questi nemici. So each of us have to make our decisions. Così ognuno di noi deve fare la propria decisione. We want to be beat up by these enemies? Noi vogliamo essere picchiati da questi nemici. We want to be destroyed by these enemies of the mind. Vogliamo essere distrutti da questi nemici della mente. Well, we have our proper armor and our protection. Noi vogliamo avere la nostra armatura di protezione. Many people have thought they can beat the enemies without their protection. Molte persone hanno pensato che possono picchiare, avere il sopravvento di questi nemici senza avere la giusta protezione. Many people have been destroyed by their foolish activity. E molta gente è stata distrutta per l'attività sciocca. So Maya is very pleased when someone tries to fight her without any protection. Così Maya è molto soddisfatta quando uno cerca di combatterla senza protezione. Perché lei distrugge questa persona molto facilmente. Yamaraj will call, come. Yamaraj chiamerà, vieni. So sometimes, not only the materialist, but sometimes the devotee has to go to Yamaraj. Иногда он забирает не только материалистов, но как в Махарадж попадают преданные, так называемые преданные, псевдо-девоты. Когда преданный в шоке, он оставляет тело и встречает Ямараджа. Он думает, нет, только не я, я же преданный. Don't you see, I have Tulsi Mala, I have Japa Beads, I have Brahmin Thread, don't bother me. Non vedi che io ho Japa Mala, у меня Tulsi Mala, четки, брахманский шнур, не трогайте меня. And Yamaraj says, oh yes, I know your kind. E dice, dopo tutto, tu hai servito il guru basandosi soltanto sulle tue proprie idee. Quindi tu sei un grande broglione. But I heard that in this age there was mercy from Lord Nityananda. Allora il devoto dice, ma io ho sentito che in quest'era c'è una speciale misericordia del Signore Nityananda. So you can't bother me. Così tu non puoi darmi fastidio. Yamaraj says, this is Lord Nityananda's mercy that I deal with you, that I deal with you. E così Yamaraj dice, questa è la misericordia del Signore Nityananda che mi prendo cura di te. Because Lord Nityananda's mercy, поскольку causa della misericordia di Nityananda, io ti picchierò molto velocemente. And the devotee keeps talking and talking. Yamaraj says, I've heard that millions of times. I know all of those stories. Allora il devoto continua a parlare. Io ho sentito queste cose milioni di volte. Я слышал все это миллионы раз. Я знаю все эти сказки. Yes, everyone comes to me. I have so many excuses. I hear them all the time. Каждый, кто приходит ко мне, у него куча оправданий. Я постоянно их выслушиваю. So Yamaraj called Yamadutas. Take him away. Yamaraj called Yamadutas. Portate lo via. Because he was hypocrite, Sadhu, you beat him very good. Поскольку он был садху притворщиком, он садху ипокрита. Allora picchiatelo molto forte. Because he was given a chance. He was given so much mercy, but he didn't take advantage of it. Ma poiché lui ha avuto la possibilità, è stato dato così tanta misericordia, lui non ha preso vantaggio. So take him to the place for the big cheaters. Quindi portatelo nel posto dei grandi broglioni. So we should be careful that we are real devotees. Quindi dobbiamo essere attenti a essere dei veri devoti. We are devoted to serving Krishna and not just to the mind and the senses. Che noi siamo devoti a servire Krishna, non essenzialmente. So it starts by being careful about our contemplation. Questo incomincia dalla nostra contemplazione. But be careful not to absorb the mind in the sensory things. Quindi dobbiamo cercare di non assorbire la mente nelle cose sensoriali. Sometimes when it happens, we just pull it back. E qualche volta se capita, просто возвращаем на место. Dobbiamo mantenerci occupati e attivi in qualcosa di positivo. Otherwise, like in war, you see casualties, you see people get wounded. Altrimenti è come in guerra. Tu vedi caduti e vedi le persone che vengono colpite. So we see this happen in Krishna consciousness. Somebody casualty, they blew. They get wounded, they go up into Maya. Мы видим, что это происходит в сознании Кришны. Alcune volte vediamo quelli che sono praticamente caduti, che bluppano, e vediamo quelli che vengono colpiti che vanno verso Maya. It's like sometimes people are leaving the movement, they go other places. Così qualche volta uno vive il movimento e va da altre, lascia il movimento e va da qualche altra parte. Sometimes they go other places just because they're looking for some sense gratification. Alcune volte uno va da qualche parte solo perché cerca della gratificazione dei sensi. But sometimes they go other places because the spiritual environment is not nourishing. E qualche volta invece uno va da qualche altra parte perché quello che lo circonda nell'ambiente spirituale non è molto non è soddisfacente. So the environment is not nourishing or stimulating. People will naturally go other places to try to get nourishment. Quindi naturalmente se uno non è nutrito spiritualmente, allora andrà a qualche altra parte a cercare nutrimento. So when someone leaves, we should also inquire in our own mind, why did they leave? E così quando uno se ne va, noi dovremmo chiederci nonostante perché se ne andrà. Is it because they did not feel happy in the association, previous association? Dobbiamo pensare perché lui non si sentiva felice nell'associazione. Because they did not feel protected потому что они не были очищены, потому что они не видели хороших примеров, потому что потеряли веру, Quando uno si sente amato e curato, allora non ha desiderio di andare via. Vuole sperimentare. They do not feel love, they feel hungry, empty, and they're looking someplace for love and security. Se uno non si sente amato, allora si sente vuoto e va a cercare qualche altra persona che non ha amore. So it's important in our communities that we have a stronger environment of love and support. Quindi è importante che nelle nostre comunità ci sia un ambiente di amore e di supporto. And good examples. E buoni esempi. Because we all are following examples. Perché anche noi stiamo seguendo gli esempi. When we see good examples, we become more encouraged, become more determined, become more eager to try to reach the goal. Se noi abbiamo dei buoni esempi, allora diventiamo più incoraggiati e siamo diventiamo più desiderosi di andare avanti. So it's each of our responsibility to be a good example. È la responsabilità di ognuno di noi essere un buon esempio. Every devotee is affecting someone else. Ogni devoto ha effetto su qualcun altro, influenza qualcun altro. So we should try to be servant and servant by influencing each other in a positive way. Così dobbiamo cercare di essere servitori dei servitori, influenzando gli altri in una maniera positiva. Questo è il più grande servizio che possiamo renderci uno con l'altro. Questo è come noi possiamo proteggere noi stessi e proteggere anche gli altri dai suoi nemici della mente. Altrimenti vedremo sempre più devoti che vengono picchiati da questi sei uragani. Yamaraj will say, oh, another pseudo devotee, here they come, more coming. Così Yamaraj dice, ah ecco, un altro pseudo devoto, il cosiddetto devoto che sta arrivando. You say, why don't they get serious? Why they keep coming to me? Perché loro non diventano seri? Perché continuano a venire da me? Very seriously, we'll also be so much happier. E quindi più noi prendiamo seriamente questo processo, più saremo felici. When we deviate from sense gratification, it may seem like we're going to be happy, get some immediate pleasure, but then later we're very depressed. Se noi deviamo verso qualche gratificazione di sensi, sembra che saremo più felici, però in realtà il risultato che avremo sarà che saremo depressi. The more strict we are, ultimately, we are feeling more Krishna. Siamo stretti, in ultima analisi più saremo felici nella coscienza di Krishna. Any questions or comments? Ci sono commenti o domande? So we're just discussing about the contemplation of the object of the senses. Quindi abbiamo discusso della contemplazione degli oggetti dei sensi. Now by contemplation comes anger, bewilderment and fall down. Di come? Dalla contemplazione viene l'attaccamento e quindi la caduta. How there are the particular enemies of the mind, they hide out in the mind, they're just waiting and watching and attacking constantly. Di come ci sono questi nemici della mente che stanno sempre aspettando l'opportunità per attaccarci. Se noi non abbiamo un'alternativa e non siamo impegnati positivamente, allora loro potranno distruggerci. Every devotee is on the battle of Kurukshetra, engaged in warfare. Ogni devoto è sul campo di battaglia di Kurukshetra. È impegnato in una guerra. But our fight with weapons of devotion. Ma la nostra guerra è combattuta con le armi della devozione. And our greatest weapon is strong satsang. L'arma più grande è un forte satsang. We have that, then we have a shield of protection. Se noi abbiamo questo, abbiamo uno scudo di protezione. And we're down, then we're just up to be attacked. Если его нет, мы легко доступны для нападения. Se noi non abbiamo questo sadhana, tendiamo ad essere attaccati. So each of us will have to sometimes somehow maintain our own strength, because everyone has to do their own fight. In qualche maniera quindi dobbiamo mantenere la nostra forza, perché ognuno di noi deve combattere la sua battaglia. Ascolto caso. You can't change my rounds, you have to change yours. You can't change your rounds for me, I can't change my rounds for you. Ognuno di noi deve cantare i giri per me, i giri per te, uno non può cantare i giri per qualcun altro. Just like if you eat your prasadam, it's not going to make me full, I have to eat also. Così come se tu mangi il tuo prasadam, non riempi a me, devo mangiare anche io. One person eats all the prasadam, we'll all be hungry. Se tutti quanti le persone mangiano il prasadam, io continuerò a essere affamato. One of the say, no, I'm going to eat everything and then everyone will be happy because I'll eat it all. Uno potrebbe dire, mangio tutto io, давайте я съем все, и все будут счастливы, что я все съел. Hey, you are nonsense. Они скажут, эй, ты же nonsense. Don't take everybody else's. Не берите. Non prendere le cose degli altri. So the thing that we all have to do like this. And Krishna is like watching. Questo è quello che dobbiamo fare noi. Krishna sta guardando. Krishna наблюдает. Anyone? Come in, of course. Ci sono delle domande? Maharaj diceva che quando i devoti se ne vanno, noi dovremmo chiederci perché se ne vanno, no? E molte volte appunto Maya ci propone questa risposta, no? Se ne sono andati perché il metodo del servizio di devozione non funziona. Cioè, si perde fiducia nel metodo del servizio di devozione. Come fare per tenere lontano questo? Avete sentito tutti la domanda? Detto, il devoto ha detto, ci sono alcune volte dei devoti che se ne vanno, no? Ma he said that sometimes devotees go, you're talking about devotees that go away and you must inquire. Вопрос только про преданных, которые уходят из движения. Почему они уходят на самом деле, как им помочь? Sure. As I said, one thing we can do is we can inquire. Sometimes we ask someone, oh, why have you done? Why did you leave? Sometimes they'll tell me. Alcune volte noi potremmo chiederci perché se ne è andato, alcune volte possiamo chiedere direttamente alla persona che cosa è successo, perché se ne è andato, cosa è successo. E qualche volta ti rispondono. There's so many different reasons. One may say, well, I have one, two gurus fall down, so uno può dire, ci sono diversi tipi di ragioni, uno può dire, ho avuto uno o due guru che sono caduti e adesso non ho più fede nell'ISKCON. One may say, well, I've been so many years following ISKCON and I'm not happy. Uno può dire, sono tanti anni che seguo l'ISKCON e non sono felice. One may say, well, I was married and I was in ISKCON. And now I want to leave my wife and I want to go somewhere else. One says, I've been to so many temples, now I'll try somewhere else. Uno può dire, ho girato tanti templi e adesso voglio cercare qualcos'altro. So some people, wherever they go, they're going to have a problem. Некоторые люди, куда бы они ни пошли, у них всегда будут проблемы. Because for many people, the problem is not the environment, but it's their own mind. Perché per molta gente il problema non è quello che li circonda, ma è la loro mente. For some other people, they are hurt from some experiences, and so when you are hurt, you try different things. E invece alcune altre persone sono state colpite. E когда ты обижен, ты хочешь попробовать что-то другое. Sono ferite, sì. E quindi con queste persone qua bisogna cercare qualcosa di differente. Cercano qualcosa di differente. Other people they get influenced by someone they know, so they act the same. Altre persone sono influenzate da qualcuno che conoscono e quindi agiscono alla stessa maniera. So there are many actually different reasons. Ci sono in realtà molte ragioni differenti. But the most important thing is when you are actually happy. Then you don't have to go other places. La cosa importante è che se tu sei felice, non devi andare da altre parti. When you feel secure about your situation, you don't have to and Quando tu ti senti sicuro riguardo alla tua situazione, non devi cercare qualcosa da qualche parte. Quando la fede della tua fede è forte in quello che stai facendo, allora sei soddisfatto. So the bottom line is we see many dissatisfied people. E in quello che possiamo vedere è che ci sono molte persone che non sono soddisfatte. Punto comune. So one has to examine to see why the satisfaction there. Quindi noi dobbiamo chiederci perché c'è questa insoddisfazione. E voi troverete diverse ragioni. And some also some general reasons. E anche delle ragioni generali. Some of the general reasons is people feel not cared for. Una delle ragioni è che la gente si sente non curata. People have lost faith in some of the leadership. Alcuni hanno perso la fede nei leader. People are thinking that maybe there's something different, something better. Alcune persone pensano che c'è qualcosa di meglio. And some people just do not understand the significance of Prabhupada's discourse. E alcuni non capiscono l'importanza di Prabhupada, dell'istituto di Prabhupada. But we ourselves, when someone leaves, we should not always be so fast to point at them. We should point at ourselves first. Però quello che dobbiamo fare è quando qualcuno se ne va, non dobbiamo essere così facilmente portati a giudicarlo, ma dobbiamo prima di tutto giudicare noi stessi. We should first think, how can we do things differently so so many family members will not go so many places. Uno dovrebbe chiedersi cosa posso fare io di differente in modo che molti membri della famiglia non se ne vadano. The same thing with someone blues. Yes, they may go into Maya. They go to Maya. We should also think, how could we have helped them so they wouldn't go off to Maya? Sì, è chiaro, quando uno se ne va, magari voi lo vedete quando persona è Maya, però bisogna pensare che cosa avrei potuto fare io per evitare che questa persona andasse in Maya. We just say, person's in Maya, then we never will find out what is the bottom problem. Se noi diciamo questa persona è Maya, non riusciremo a capire qual è il problema di fondo. It's like sometimes teenage children, they become rebellious. Qualche volta i ragazzi giovani, i teenager, diventano ribelli. So we can just say, oh, my nonsense boy, my nonsense girl, forget about it. Così uno potrebbe dire, no, questo mio figlio senza senso, questa mia figlia senza senso, dimentichiamoci di loro. Or we can try to understand and help them in their craziness. Oppure possiamo cercare di comprendere ed aiutarli nella loro follia. Some of you have seen, maybe some of you may, maybe a few of you have teenage kids. Forse alcuni di voi hanno dei figli adolescenti. Non è facile. È difficile per i genitori in quell'età. But if you're a little patient and you guide them, sometimes they come out of their wild period. Se voi siete pazienti, vi prendete cura di loro, loro alcune volte vengono fuori dalle loro abitudini sbagliate. But sometimes their wildness is so intense, they never change. Ma qualche volta loro sono così selvaggi che veramente non possono cambiare. Alcuni che se ne vanno torneranno nel futuro. Alcuni di loro, il loro problema è così forte che non torneranno. Ci sono altre domande? Allora, spero di non essere fraintesa, no? Allora un po' spero di non essere fraintesa. Dunque, la ISKCON è stata istituita dal nostro amato Srila Prabhupada. E noi sappiamo la sua elevata potenza, eccetera, eccetera. Però мы все знаем, что Шри Прабхупада ИСККОН был основан в но с течением времени... Может быть, это движение теряет силу. Quelli che seguono, che non hanno più tanta, diciamo, fiducia nella ISKCON, possono salvarsi ugualmente seguendo Krishna, gli insegnamenti di Krishna. così, ecco. Pur non disconoscendo Prabhupada, Sì. She said that all we know the power of Srila Prabhupada and there is a movement that's been founded by him. But by the course of time, maybe this movement lost its power. So can a person that hasn't got faith in the movement as it is now return back to Krishna, knowing Krishna also without getting in contact with this movement? Krishna ultimately says, abandon all varieties of religion and surrender unto me. Krishna dice, that doesn't mean anarchy, but it means all religions are the form. Questo non significa anarchia, ma significa che tutte le religioni sono un mezzo per arrivare a lui. But there's an essence we're trying to capture. Ma noi cerchiamo di raggiungere l'essenza. The essence is that we're really trying to become lovers of Krishna. L'essenza è che noi dobbiamo diventare amanti di Krishna. There's a process how to develop that love. C'è un processo per sviluppare questo amore. Good association. Avere una buona associazione. Controlling the mind senses. Controllare la mente e i sensi. So the idea is we must look for quality association. Quindi l'idea è che noi dobbiamo cercare una buona qualità di associazione. Normally, one must be loyal to their family. Una cosa che uno deve generalmente una persona deve essere leale alla sua famiglia. But being loyal to the family doesn't mean that we have to be sectarian. Ma essere leali alla famiglia non significa che noi dobbiamo diventare settari. We should be chaste and set good examples and then develop a strong Krishna consciousness. Dobbiamo essere casti, dare un buon esempio e sviluppare un buon livello di coscienza di Krishna. We should remind ourselves every institution has its problems. Noi dovremmo pensare che ogni istituzione ha i suoi problemi. If you go from one institution to another, everyone has a different types of problems. Alcune persone vanno da un'istituzione all'altra, e alla fine capisce che ogni istituzione ha dei problemi. So better to make one's own institution better. Quindi la cosa migliore è rendere migliore la propria istituzione. But Krishna is not ultimately looking at one institution you're in. He's looking at how much you become serious. La cosa che Krishna guarda non è in quale istituzione noi siamo, ma quanto noi siamo sinceri. Ma molte persone che vanno via da un'istituzione all'altra è soltanto per reazione. La maggior parte dei casi è una reazione che loro fanno. So when you embrace something just based on a reaction, that's not really a strong platform. Quindi quando tu abbracci qualcosa soltanto per una reazione, allora non è una forte piattaforma. Platforma. Non è un impegno genuino. Because sometimes it is just reactive. Perché spesso è soltanto una reazione. But Krishna is watching each person's heart and consciousness. Ma Krishna sta guardando profondamente la coscienza di ognuno. And he knows how much of it is just right out of Maya. Vede quanto in realtà noi siamo inclini a Maya. How much is confusion? Quanto c'è di confusione? How much is desperation? E quanto invece c'è disperazione? Each is looked at differently. Tutte quante queste cose sono viste differentemente. Just like when someone commits a crime. Proprio come quando qualcuno commette un omicidio. So sometimes it's contemplated, that's more serious. Quindi se questo era premeditato, allora è più serio. Sometimes it happens on the moment, by accident. Se succede per incidente, alcune volte succede per incidente. Other times it wasn't even so much planned, but circumstance caused it to happen. Altre volte uno non aveva fatto nessun piano, ma succede per circostanze. But we do have to understand. If you're trying to be a devotee, And maybe you have one, two, three gurus who have fallen down. Then your faith is going to be very, very weak. Però quello che dobbiamo capire è che quando uno ha avuto uno, due o tre maestri spirituali che sono caduti, la fede può diventare molto, molto, molto debole. It's like a young girl who falls in love. Then she finds out that her beloved does not love her, but has been cheating on her. Come una ragazza che si fidanza con qualcuno e poi capisce che il suo fidanzato non la ama, ma la sta solo imbrogliando. Some people will never get into a strong relationship again. Alcune persone che hanno questa esperienza non vogliono più avere nessun'altra relazione più. Others, they will get into a relationship, they'll never give their heart again. Altri invece hanno di nuovo una relazione, però non danno mai più il loro cuore. And many, they will just pretend, they will go here, they will go here, but they will not really be so serious. E altri invece semplicemente aggireranno un po', andranno un po' di qua, di là, però non saranno mai molto seri. So we have many people in the movement who they have been hurt, and so they may not be able to give their heart so easily. Quindi ci sono molte persone nel nostro movimento che sono state ferite e quindi non facilmente riescono a dare di nuovo il loro cuore a qualcuno. Another question. There's many reasons why people engage in sense gratification. Many reasons why people join institutions. Così, quello che si può dire, ci sono tanti motivi per impegnarsi nella gratificazione dei sensi, ci devono essere altrettanti motivi per unirsi alla nostra istituzione. Many reasons why people join the Krishna consciousness movement. Ci sono molte ragioni per cui una persona si deve unire al movimento per la coscienza di Cristo. Krishna himself gives four different reasons. Krishna stesso dà quattro tipi di ragioni. Look for money, distress, curiosity and knowledge. Alcuni cercano soffrono, altri perché cercano ricchezze o perché per curiosità o perché cercano la conoscenza. Individuality and expression. Quindi è sempre un'espressione individuale. But we should know that this Krishna consciousness movement is actually the Lord Chaitanya's movement. E noi quello che dobbiamo capire è che questo movimento per la coscienza di Krishna in realtà è il movimento del Signore Chaitanya. Lord Chaitanya, he is not a failure. Il Signore Chaitanya non è un che sbaglia. He's not going to let this movement fall apart. Non è che non possiamo lasciare questo movimento cada a pezzi, non lascerà che questo movimento cada a pezzi. Even if externally so many things become deviant. Anche se esternamente molte cose possono sembrare deviate. Then you just use other persons. E quindi in other words, if some of the devotees are not acting proper. It's the Lord's movement, so he will just work through other people. Se ci sono delle persone che agiscono in maniera inappropriata, il Signore Chaitanya agirà attraverso altri tipi di persone. In war, there's always some casualties. Some people get wounded, some people die. In guerra ci sono sempre dei caduti, delle persone ferite e alcune persone che muoiono. But some people become victorious. Ma anche alcune persone diventano vittoriose. So if we do follow properly, if we get strength, we will be victorious. Ma se noi seguiamo completamente, noi saremo vittoriosi. If we don't follow properly, we will get weak. People around us will get weak. Then so much maya will just come in from all different ways. Se noi non agiamo completamente, allora diventeremo deboli. La gente che sta attorno a noi si indebolirà anche e ci sarà un sacco di maya che gira attorno. We should all look at ourselves to see. We are making the environment strong. E quindi quello che noi dobbiamo cercare di fare è prenderci cura di noi stessi e vedere che il nostro avanzamento, il nostro, quello che ci circonda diventa sempre più forte. It's like in a family. So if there's some problem, then the family members are supposed to lovingly help out. E così come in una famiglia, se ci sono dei problemi, si suppone che i membri della famiglia si prendano cura e con amore di questi problemi. These days there's too many dysfunctional families. In questi giorni vediamo che ci sono molte distruzioni delle famiglie. So in a family everybody's fine. Nelle famiglie tutti quanti si combattono con l'altro. How can the mother and father be pleased with so much fight? Ma come possono i genitori essere felici, soddisfatti, se c'è così tanta guerra tra i fratelli? E last question. Se ci sono, c'è l'ultima domanda. Allora io volevo. Second no, volevo aggiungere che se c'è discordia nella famiglia piccola o grande, bisogna fare in modo che i membri vengano presi con amore e non con violenza, eccetera, eccetera, insomma, come invece magari avviene. Disappointment in the family, disagreement in the family. The members should try to solve these problems with love, not with violence, as sometimes happens. Exactly. We should always understand that in a family there will be some conflicts, some issues, but they should be solved with understanding and love. Esattamente, proprio così. Noi dobbiamo capire che nelle famiglie ci possono essere sempre delle incomprensioni o dei disaccordi, però devono essere risolti con la comprensione e l'amore. There's always conflicts, but your world means duality. It means conflict. Ci sono sempre conflitti. Неизбежны. Материальный мир означает двойственность, то есть конфликты.